sarebbe orgoglioso di me, delle mie ali di metallo collegate al mio cervello. E il sole dall'assù mi guarda e non può nulla, e la mia terra ammalata mi saluta sconsolata. Questa è la tecnologia applicata ai miei sogni, questa è la democrazia tra l'umano e gli uccelli. Se il paesaggio poi non è altro che fumo di diossine, io saprò guardar lontano in pianure verdi senza fine. Adesso potrei diventare scienziato ultraspaziale, inviato della NASA, filosofo metafisico, infiltrato nei servizi segreti.